si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Sette e 31 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori e auguri a questo punto, perché ormai siamo in vigilia, si possono cominciare a fare gli auguri. Eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi. E allora, cominciamo tra poco con la rassegna stampa, un'occhiata veloce ai giornali di oggi che ci accompagna fino al giornale radio delle 8. Subito i nostri contatti, Facebook si può fare, trattino radio 24, l'account su Twitter è @ si può fare 24. Iniziamo, vai. E allora, eccoci qua, giornali naturalmente molto dedicati all'operazione l'altra notte a Sesto San Giovanni, all'uccisione del terrorista che era entrato in azione a Berlino con la strage dei mercatini di Natale e tutta una serie di domande che rimangono ancora aperte nonostante la velocità, la rapidità con la quale gli agenti italiani, dobbiamo dirlo, anche per caso, ma non per caso, era un controllo di routine, ma questo vuol dire che funziona qualche cosa a livello di controlli, a livello di sicurezza in Italia, funziona molto evidentemente, sì, appunto, anche semplicemente con misure rafforzate come in questi giorni, ma con un appunto controllo di routine come ce ne fanno tanti da tutte le parti di fronte alle stazioni italiane, sono riusciti a intercettare, poi con grande coraggio naturalmente anche a reagire al colpo di pistola sparato da Amri, ma e poi c'è anche una piccola coda polemica sulla rivelazione dei nomi degli agenti che sono entrati in azione, per qualcuno si è messo un po' a repentaglio la loro sicurezza. Ma andiamo per ordine, vediamo già i titoli scelti dai giornali, sono indicativi anche un po' degli animi. Si va dal Corriere della Sera che scegliere un titolo: il killer in fuga ucciso a Milano, l'autore della strage di Berlino ferisce un agente in una sparatoria, rete di appoggi in Italia, in un video Amri giurò fedeltà all'ISIS, un video girato molto probabilmente da un ponte a Berlino nei pressi di una grande moschea, nel quale appunto Amri giurava di vendetta, di uccidere in nome di Dio. Polemica sulla diffusione di foto in nome dei poliziotti, conclude il Corriere la sua prima pagina: così è finita la fuga del killer per Repubblica, ucciso il killer, ora si indaga in Italia. Quindi la parola utilizzata dai tre principali quotidiani è killer, così come fa anche il Messaggero: ucciso il killer, una rete in Italia. Cambiano un po' i termini, cambiano un po' i toni. Il Giorno, il quotidiano di Milano: agenti, eroi, fermano il boia, strage di Natale, il killer di Berlino ucciso durante un controllo a Sesto San Giovanni, ferito uno dei poliziotti, polemica sul Viminale, non doveva divulgare i loro nomi. E poi Libero: Italia 1, Germania 0, ucciso dalla nostra polizia il terrorista di Berlino. Già, questo è un ragionamento sotto traccia che hanno fatto in molti, abbiamo fatto in tanti ieri in questa sfida a distanza, a volte motivata su basi solide, politiche ed economiche, come accade nella questione europea, a volte come in questo titolo può richiamare Italia-Germania 1-0 la banale sfida calcistica, ma insomma sempre di sfida si tratta tra l'Italia e la Germania. In questo caso Libero la mette su questo piano, sottolineando come noi siamo riusciti a mettere KO il killer di Berlino. Sottotitolo del Libero: noi disprezziamo e sottopaghiamo le forze dell'ordine, ma sono le migliori d'Europa. La Merkel aveva promesso 100.000 euro d'Italia, lei ora ci ringrazia, ma non versa. Questo è il piccolo côté polemico di Libero. Poi ancora uno di meno, la verità di Belpietro: pietà per i morti ma non per tutti, ucciso l'attentatore di Berlino, semplicemente nominato uno di meno. Il Manifesto: foto con Sesto San Giovanni nella notte e i fotografi che fotografano il corpo di Amri a terra, ricoperto dal classico telo della polizia, uno sparo nel buio, è il titolo del manifesto. Poi il giornale, una bestia in meno, qui cambia ancora la terminologia, il killer di Berlino ucciso a Milano grazie alla polizia, e la parola scelta è una bestia, insomma dai titoli Islamici bastardi, credo che fosse Libero, a Italia-Germania 1-0, una bestia in meno. Il passo è breve, ma la differenza è sostanziale. Chi potrebbe dire che Anis Amri non era una bestia? Nessuno, assolutamente nessuno. E quindi si tratta di una scelta di termini più o meno forti per definire questo killer, ma la sostanza non cambia, credo, per nessuno. Andiamo a vedere qualche dettaglio. Naturalmente in queste ore se ne sono dette, sentite molte. Io ho scelto di raccontarvi, tra le tante cose che ci sono sui giornali di oggi, alcune cose veloci, salto i commenti, salto le analisi. Ognuno le ritrova sui propri quotidiani preferiti. Vado per elementi. Per esempio La Stampa ci ricorda il percorso fatto da Amri, non tanto nelle ore che lo separavano dall'attentato di Berlino a quello di Milano, lo vedremo tra poco, ma quanto dal suo arrivo in Italia in poi. Sbarca nel 2011, il 4 aprile, su un barcone a Lampedusa, si dichiara minorenne e 5 anni fa probabilmente lo era. Viene trasferito 3 giorni dopo in una comunità di alloggio per minori a Belpasso, provincia di Catania. Questo è un iter capitato a tantissimi. Viene arrestato invece pochi mesi dopo, il 23 ottobre, e portato nel carcere di Catania per aver tentato di incendiare la sua comunità. E qui iniziano i problemi, inizia a scontare la pena in diverse carceri siciliane, è monitorato come soggetto violento e a rischio di radicalizzazione. Passa in carcere quasi 4 anni, terminata la pena nel 18 maggio 2015, quindi sono già passati 5 anni dal suo arrivo in Italia, 4 anni scusate, terminata la pena viene trasferito di nuovo al CIE, Centro di Identificazione e Espulsione di Caltanissetta, per il rimpatrio in Tunisia. Ma attenzione, la svolta avviene 2 mesi più tardi, quando a luglio del 2015 non viene espulso, e qui casca l'asino, perché sono le espulsioni che scattano formalmente, ma non scattano in concreto, se non raramente. Dopo 60 giorni però lascia il CIE e si trasferisce in Germania, come dire, problema di un altro paese, ma è solo, ahimè, un tragico problema rimandato. Comincia a fare la spola tra la regione del Nord Reno-Vestfalia e Berlino. In questo periodo fa richiesta di asilo in Germania, come se fosse un richiedente asilo, un profugo, utilizza documenti falsi egiziani. Viene segnalato nel frattempo, siamo già all'inizio del 2016, come un soggetto pericoloso dai servizi tedeschi. A Berlino vive nel quartiere Kreuzberg, dove viene tenuto abbastanza costantemente sotto controllo dalla polizia tedesca. C'è un percorso esemplare, non è che anche in questo caso ci fosse da aspettarsi molto di meglio di quello che, ahimè, è accaduto da parte di Anis Amri. E questo è il percorso di questi 5 anni in Europa. Il percorso invece fatto nelle ultime ore lo vediamo subito, il viaggio, anche questo ci dice qualcosa sulle indagini, bisognerà capire se aveva degli appoggi, dei sostegni, qualcuno che gli ha dato una mano, ma insomma, o che era pronto a dargli una mano, per esempio a Milano, su questo gli investigatori stanno indagando. Abbandona a piedi il tir di Berlino, col quale ha messo sotto e ucciso diverse persone, fugge a piedi. Sono le 20:15 di lunedì sera, il 19 dicembre. Le telecamere della moschea lo riprendono alle 3:49 del mattino. Martedì a Berlino registra il videotestamento, quindi il giorno dopo quello di cui parlavamo prima, nel quale giura fedeltà al califfato dell'ISIS. Parte in treno per la Francia. Arriva giovedì con un tragitto che gli investigatori non hanno ancora ricostruito, scrive La Stampa. A Lione-Chambéry sale sul TGV delle 17:44, proprio da Chambéry, ha un biglietto per Milano con un arrivo previsto alle 21.50, ma scende prima, scende a Torino Porta Susa alle 20.18. Amri sembra che sia già sceso, ma a Torino comunque si ferma poco, sale sul regionale veloce a Porta Nuova alle 20.54 e arriva a Milano a 00:46. Giovedì notte Amri cammina sui binari della stazione di Milano, alle 2.20 di venerdì a Piazza Lima sale sull'autobus sostitutivo della linea rossa verso Sesto San Giovanni, alle 3.05 la volante Alfa lo intercetta, lo nota sul piazzale davanti alla stazione, lo ferma, questa è storia che sapete tutti, gli chiede i documenti, Amri tira fuori una pistola dalla borsa, cerca di sparare, spara, colpisce alla spalla uno dei due poliziotti, l'altro reagisce immediatamente e lo fredda sul colpo. Le domande che restano aperte, vediamo velocemente, sempre su Repubblica con Carlo Bonini, che ha cercato di trarre degli elementi dall'indagine, scrive Bonini, parte dalle schede telefoniche, dai cellulari che sarebbero rimasti sostanzialmente in silenzio nelle ore che hanno preceduto l'attentato, una circostanza che confermerebbe come non ci sarebbe stato nulla di preordinato né nella strage né nella fuga che poi ne è seguita, cioè a dire se avesse avuto una rete di appoggio ampia, qualcuno che lo dirigeva, si sarebbe potuto capire dalle schede telefoniche che facevano capo a lui e dal telefono cellulare. Questo forse però è ancora presto per poterlo concludere, potrebbe aver avuto degli altri telefoni che sono spariti, però insomma questa è la prima evidenza. Poi del resto, prosegue Bonini, nessuno sembrerebbe avere accompagnato Amri nella sua fuga da Berlino, o almeno questo sarebbe vero per quel che concerne l'ultimo tratto del suo viaggio, quello da Chambéry, come dicevamo prima, a Milano. Infatti le immagini delle telecamere che lo vedono scendere alla stazione di Torino alle 20.18 minuti del 22 dicembre del treno partito appunto da Chambéry lo ritraggono sempre da solo. E anche questo è un elemento, naturalmente il fatto che stesse in giro da solo, questo non vuol dire che non avesse degli appoggi, non godesse di una rete di appoggi, qualcuno che magari si può trovare in Italia o a Torino o a Milano, probabilmente a Milano. Ecco perché l'ipotesi su cui si stanno muovendo gli inquirenti, prosegue Bonini su Repubblica, è questa: arrivato a Milano, Amri, privo di un indirizzo certo alla cui porta poter bussare, decide di trascorrere la notte spostandosi in cerca di qualcuno che all'interno della storica comunità magrebina della città non si tiri indietro nel dargli un ricovero. Questo potrebbe giustificare anche il ritardo col quale ha preso questi treni, avrebbe potuto arrivare prima, ma evidentemente o per eludere qualche controllo o semplicemente perché in fondo non sapeva dove andare, preferiva forse arrivare di notte. Così è stato, è arrivato poi solo alle 3 di notte a Sesto San Giovanni. Una circostanza importante riguarda i 4 anni trascorsi nelle carceri italiane a Palermo. Durante questi 4 anni Amri ha diviso la sua cella quasi sempre con compagni nordafricani. Non è infatti una circostanza da sottovalutare, perché avrebbe potuto allacciare legami o amicizie cui giovedì notte, nel momento del massimo bisogno, avrebbe deciso di fare appello. Ragione per la quale da ieri la nostra antiterrorismo sta esaminando decine di nomi di ex detenuti che hanno condiviso il carcere proprio con Amri, per verificare dove siano oggi e dove fossero la notte di giovedì. Tutte persone che potrebbero essere persone alle quali Amri andava a rivolgersi per cercare un aiuto. Staremo a vedere nel prossimo anno se ci saranno sviluppi in questa inchiesta. Per adesso ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un po'. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e ben ritrovati. Allora, spezziamo un attimo la pagina su le inchieste che riguardano Amri ucciso l'altra notte dalla polizia a Sesto San Giovanni, e cui torneremo pure tra poco per altri aspetti che ci sono sui giornali di oggi. Spezziamo con la notizia, un tormentone di queste settimane, il Monte dei Paschi di Siena, perché è arrivato il decreto del governo, dopo il via libera anche del Parlamento, per questo scudo che dovrebbe servire per il Monte dei Paschi, eventualmente anche per altre banche, 20 miliardi al credito, ma arriva anche, come scrive il Sole 24 Ore in prima pagina, il primo sì dell'Unione Europea, decreto banche, primo sì dell'Europa in vigore, il decreto legge sui 20 miliardi di credito, la Consob congela gli scambi dei titoli del Monte dei Paschi, finché il quadro non sarà chiarito. Intanto però da Bruxelles sostegno pieno al decreto per rafforzare il sistema bancario italiano, ma l'aumento di capitale di Monte Paschi dovrà avere il via libera sia dell'Unione Europea, delle istituzioni dell'Unione Europea, sia della Banca Centrale Europea. Consob, come detto, congela gli scambi sui titoli Monte Paschi, e poi con il consueto strumento Rating 24, il Sole 24 Ore analizza la validità, l'efficacia del decreto salva, cosiddetto salva banche, e misura per misura si comincia con il plafond da 20 miliardi, le risorse destinate a coprire le garanzie per la liquidità e la ricapitalizzazione precauzionale, una efficacia elevata. Si va poi a tutte gli altri aspetti della misura, i bond subordinati, i vincoli per il rimborso, il tesoro potrà acquistare le azioni frutto della conversione forzosa in mano ai piccoli risparmiatori, anche in questo caso efficacia alta, dove l'efficacia viene valutata bassa, quindi un provvedimento a rischio da questo punto di vista, è la gestione delle emissioni in 3 anni previsti fino a 582 milioni di euro per gestire il nuovo debito. Efficacia bassa, e questo appunto è il punto sulla vicenda Monte Paschi di Siena. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, già che ci siamo, il punto anche sull'altra vicenda di finanza che appassiona riguarda l'Italia, la questione di Mediaset. L'Agcom, l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni, pronta a bloccare l'OPA su Mediaset. Il CEO di Vivendi dice: siamo secondi azionisti, ora ci sono più ragioni per un accordo. Quindi, spiegando questa notizia, l'autorità per la garanzia delle comunicazioni è pronta a bloccare Vivendi se il rastrellamento francese su Mediaset prenderà la strada dell'OPA, perché è contro la legge. Ma appunto il numero uno di Vivendi ieri in Consob ha ribadito di voler trovare un accordo, a maggior ragione adesso che i francesi sono diventati il secondo azionista. Un accordo che ricordo era all'origine di questa vicenda, perché c'era già un accordo, un precontratto firmato tra i francesi e Mediaset per l'acquisto di Premium, la piattaforma per la TV a pagamento di Mediaset. Un accordo che poi era andato all'aria, di lì poi contenzioso legale, e di lì anche poi la successiva scalata dei francesi. Quindi la notizia adesso è che l'Agcom si dice pronta a bloccare l'OPA, e il Vivendi si dice invece pronta a trattare con Mediaset. Questo è il Sole 24 Ore. Torniamo invece alla notizia principale. Torniamo sul Corriere, killer in fuga ucciso a Milano, il titolo ve lo ricordo per se vi siete messi in collegamento soltanto adesso, l'autore della strage di Berlino ferisce un agente in una sparatoria, rete di appoggi in Italia. In un video Ammeri giurò fedeltà all'ISIS, polemica sulla diffusione di foto e nomi dei poliziotti. E allora leggiamo di cosa si tratta, succede che il primo a fare i nomi dei poliziotti intervenuti, il questore di Milano ha detto non sono degli eroi, sono semplicemente dei poliziotti che hanno fatto bene, molto bene, aggiungiamo noi, il loro dovere. Il primo a fare però i loro nomi è stato il ministro dell'interno Marco Minniti, durante la conferenza stampa nella quale confermava l'uccisione nella notte del super ricercato, il tunisino Anis Amri, il killer di Berlino. È stato seguito Minniti, ci ricorda il Corriere, subito dopo dal premier Paolo Gentiloni, che addirittura le ha twittati. Ma intanto, 4 ore dopo, la sparatoria davanti alla stazione di Sesto San Giovanni, alle 7:30 del mattino, il capo dello Stato, della polizia, Franco Gabrielli, aveva già emanato una circolare in cui raccomandava la massima attenzione, poiché non si possono escludere azioni ritorsive anche nei confronti dei poliziotti e di tutto il personale delle forze dell'ordine in divisa. Cioè, come dire, mettere insieme questi due elementi ci porta a concludere che è stata commessa un'imprudenza da parte sia del ministro dell'interno che del ministro degli esteri, perché se il capo della polizia invita alla massima attenzione in vista di possibili azioni ritorsive, bisogna portare massima attenzione. Ora, se questa attenzione sia compatibile con il fatto di rivelare i nomi dei poliziotti, questo lascio a voi giudicare. Io personalmente non riesco a farmi una opinione su cosa voglia dire massima attenzione, massimo riservo. Sono questioni che riguardano chi opera quotidianamente con il proprio bagaglio di conoscenze, no? In questo ambito. Però vi leggo due punti di vista che sono quelli di un sindacalista del sindacato di polizia che dice, Daniele Tissone del SIP CGL, quei due dovranno essere trasferiti, adesso sono a rischio tutti i poliziotti. C'è un'opinione critica nei confronti di questa pubblicità che è stata fatta. Di sicuro ha fatto bene il capo della polizia, dice Tissone, Franco Gabrielli, ad emanare subito la circolare che innalza il livello di attenzione per tutte le forze dell'ordine, perché è chiaro che se il terrorista tunisino nell'universo jihadista verrà vissuto come un martire, allora ci sarà sì che ci sarà il pericolo. Io credo più a un pericolo esteso a tutti i poliziotti, perché chi vorrà vendicarsi troverà più semplice farlo colpendo nel mucchio, non certo andando a rintracciare i due agenti di Sesto che nel frattempo saranno stati trasferiti chissà dove. A lei è mai capitato una cosa del genere? E dice Tissone, quando ero ispettore a Savona mi capitò di catturare degli assassini, il mio nome finì sui giornali, ma rimasi sereno, non ebbi mai minacce in seguito. E questa è la sua storia personale. Più favorevole alla pubblicazione dei nomi dei poliziotti Stefano D'Ambruoso, ex magistrato, oggi deputato, dice che adesso tra chi porta le divise prevale l'orgoglio, quindi, come dire, fare il nome vuol dire far crescere anche la consapevolezza, l'orgoglio tra i poliziotti. Ho parlato, dice in queste ore D'Ambruoso, con vari rappresentanti delle forze dell'ordine, prevale in tutti l'orgoglio, perché i poliziotti in strada corrono il rischio di doversi giustificare spesso anche quando fanno in pieno il loro dovere. Potrebbero esserci delle ritorsioni contro questi poliziotti? Potranno esserci delle ritorsioni contro chiunque, laddove un jihadista viene ucciso, imprigionato, espulso? Ecco che tutti i poliziotti corrono il rischio, conta il ruolo. Su questo c'è opinione comune, insomma, ecco, tutti i poliziotti corrono il rischio, non soltanto quei due in particolare. Va bene, e questa era la vicenda con la quale chiudiamo questa lunghissima pagina. Andiamo a un'altra notizia importante di prima pagina sulla Repubblica. Sotto inchiesta il ministro Lotti, io non c'entro, lo chiarirò ai PM. I PM di Napoli accusano il ministro di aver rivelato l'indagine che riguardava la Consip, la centrale per gli acquisti, la pubblica amministrazione, proprio al suo amministratore delegato. La soffiata ai vertici della Consip era partita non solo dai pianianti dell'Arma, ma addirittura da Palazzo Chigi, al punto che dopo un colloquio con il sottosegretario Lotti, l'amministratore delegato della Consip, Marroni, avrebbe deciso di disporre una bonifica degli uffici per individuare le microspie piazzate dai magistrati. Cioè, i magistrati indagavano, avevano piazzato delle microspie nelle uffici della Consip e del suo amministratore delegato perché sospettavano che negli appalti di queste forniture ci fossero delle tangenti e della corruzione. L'accusa nei confronti dell'ex ministro, attuale ancora allora è sottosegretario ministro Lotti, è quella di aver avvertito il capo di questa azienda dicendo: guarda che ti indagano, io l'ho saputo, quindi ripulisci il tuo ufficio, togli le microspie. Un'accusa pesante, ma siamo per ora soltanto a livello di accusa. Bisognerà poi vedere il processo dove porterà. Voglio però lasciarvi, se non ho il tempo per altre notizie, almeno per questa, con una buona notizia che riguarda Amatrice. La prima opera realizzata ad Amatrice è una mensa. Inaugurata la struttura architettonicamente disegnata dall'architetto Stefano Boeri, un solo enorme spiovente di legno con una parete di cristallo affacciata sul verde. Non sembra una mensa quella disegnata da Boeri, realizzata con i fondi della raccolta Un Aiuto Subito del Corriere e della Sette e consegnata ieri alla cittadinanza. Sembra più una location da eventi cinematografici, con quello skyline dei monti della Lega sullo sfondo. Il sindaco Pirozzi si è commosso dopo la scossa il 30 ottobre. Io venivo qui, guardavo le montagne immaginando il futuro della mia comunità. Ecco perché quando nei giorni passati ho visto tornare pian piano la gente ad assistere ai lavori, mi sono emozionato. È stato il più grande regalo. Ci avete ridato la speranza nel futuro. Bene, con questo ci fermiamo. C'è il giornale radio, poi torniamo subito dopo, più tardi. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Eccoci qua, 8:15, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Eccoci, cari ascoltatori, quando sono proprio le ultimissime ore. È la vigilia. Natale. Stasera cosa fate, con chi state, con chi lo passate? Chiamateci 800 24 00 24. Cioè, accettiamo anche le liste degli invitati, con chi state, sì, stasera, con chi sarete stasera, pure il regalo migliore o peggiore che pensate di avere fatto. Anche oggi mettiamo in palio, come sempre in questo caso, due biglietti per la mostra di Basquiat allo splendido MUDEC di Milano. Tra poco parleremo invece di una cosa piuttosto seria, perché alla vigilia di Natale però ci sono delle persone che sono senza lavoro, persone che avevano un lavoro e lo stanno, rischiano di perderlo. In particolare ci riferiamo alla vicenda dei call center dell'Almaviva. C'è stato un accordo ponte, un accordo parziale, ma insomma ci sono 1000 posti a Napoli e 1500 a Roma che ballano. Il nostro pensiero va anche a questi lavoratori. E quindi tra poco cercheremo di capire un po' cosa si agita nelle acque, appunto. Dei call center. Che tra l'altro, soprattutto in questo periodo, si sentono spessissimo, fra consegne a domicilio, fra, non so, io ho avuto un pasticcio di una consegna, sì, e sono stato al telefono credo per 6 ore di fila, ogni volta parlando con una persona diversa, ogni volta iniziando a spiegare tutto il problema. Infatti viviamo questa specie di paradosso: sono sempre più presenti i call center e i loro operatori nelle nostre vite, ma se ne sa sempre poco, e quando se ne parla perché ci sono dei licenziamenti, ci sono delle difficoltà, delle crisi aziendali, come diceva Benigni. Ma che c'è nei call center? Che c'è in Medio Oriente, dicevo? Che c'è nei call center? Lo chiederemo tra poco a un esperto di questo settore. E poi, ascoltatori, oggi per giocare con noi all'800 24 00 24 vogliamo, proviamo a fare un gioco, a fare un altro gioco oltre a quello dei regali. Il gioco è questo: associamo ad ogni politico un animale. Partiamo dalla notizia, partiamo giusto? Dalla notizia, però non necessariamente deve essere un animale, cioè deve essere una cosa terrificante, no? Triviale, perché chiaramente adesso è Natale, proviamo a essere un po' meno accaniti. Stai chiedendo fare di un gioco così. Stai chiedendo di eliminare il porco. Diciamo, esatto. Eliminiamo il porco così. Cani, per gatti, dire tutto quello che volete. Allora, la notizia è questa. Alle Hawaii è stato scoperto una nuova specie di pesce ed è stata intitolata a Obama, quindi si chiama il pesce Obama. Da il oggi sappiate Obama. Che nel giro per il mondo esiste il pesce Obama, è piccolo, rosa e giallo ed è stato dedicato a lui per l'impegno di Obama nella protezione dell'ambiente, eccetera. Allora, aguzzate un po' il vostro ingegno. Stiamo tutti pensando a Trump, stiamo tutti pensando per esempio che animale potrebbe essere Trump, però esatto. È molto difficile il gioco che stiamo chiedendo, perché effettivamente vengono quasi in mente solo, non dico cose offensive, però nel momento che le leghi a un animale, quindi è molto difficile. Però tutto sta nella motivazione, esatto. faccio un esempio io per aprire. Uno potrebbe dire che Gentiloni potrebbe essere associato a un cane, per un governo da cani, no, e adesso vieni arrestato, no, perché no, non necessariamente, perché no. Se, magari solo perché è fedele come i cani sono, o perché fedele. È il miglior amico di Renzi, no, volevo esatto. Dire dell'uomo, scusami, questo è solo un esempio, quindi 800 24 0024 vi aspettiamo, vai. C'è qualcosa che non va in questo cielo. Qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice qua, c'è chi dice là. Io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua. Io non ci sono. Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sa che si accontenterà. Allora, è uno dei casi aziendali di questi ultimi tempi, in uno dei settori in ristrutturazione. Parola difficile che vuol dire che c'è un po' di crisi. Parliamo dell'Alma Viva, circa 10.000 dipendenti in Italia, attivi nel settore appunto dei call center. Due giorni fa al Ministero dello Sviluppo è stata raggiunta una prima intesa sugli esuberi che sono previsti da parte dell'azienda in alcune sedi. Un'intesa che però è stata sottoscritta soltanto a Napoli, dovrebbe salvare il posto a circa 1.000 persone, 900. I dipendenti di Roma invece hanno votato no. Da cui è una proroga di 3 mesi, se esatto. Non ho capito male, insomma. Da cui anche il nostro c'è chi dice no di Vasco, e sono 1.600 lavoratori della sede di Roma che a questo punto sono a rischio licenziamenti. Noi abbiamo invitato a parlarne Vito Antonio Vitale, segretario nazionale della FISTEL CISL. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Il buongiorno. Sindacato di categoria proprio di questo settore, perché vogliamo anche allargare un po' la discussione per capire come mai in maniera ricorrente si parla di questa crisi nell'ambito dei call center, che per esperienza diretta sono sempre più presenti nelle nostre vite, perché sono sempre più presenti quasi in tutte le grandi aziende. Però cominciamo, Vitale, dalla questione proprio dell'Alma Viva. Entriamo nella questione, nel specifico ci domandiamo perché a Napoli hanno firmato e invece a Roma no. Che cosa, dov'è sta la differenza di valutazione? Ecco, il problema era questo qui. Il giorno, l'altro ieri, scadeva i tempi della procedura aperta per i licenziamenti di 2.511 unità. Eravamo di fronte ormai alla scadenza proprio ad attimi, a ore. Mancavano pochi minuti a mezzanotte per fare l'intesa, oppure purtroppo portare il licenziamento da 200 a tutte le unità. Si è ritenuto opportuno, su invito del ministro Calenda e della Bellanova, la sottosegretaria, di accettare, oppure cercare di capire se il loro invito poteva essere utile a tentare di avere tempo per fare ancora qualche altro sforzo di responsabilità per trovare un'intesa tra le organizzazioni sindacali e le aziende. cosa hanno sottoposto il ministro, che è sempre stato presente negli ultimi tempi, quindi una proposta fatta da finalmente due persone politiche che negli ultimi periodi hanno dato un segno tangibile di voler risolvere il problema di questi benedetti call center. Questo ci fa piacere, però veniamo appunto alle diverse valutazioni. Le valutazioni erano quelle lì. Si spostava il licenziamento non più a un'ora, ma a tre mesi, quindi il 31 marzo, con la possibilità di superare questo dramma trovando tre temi che il ministro metteva all'attenzione della gente del sindacato, che erano tre problemi. Uno, un tema sull'efficienza e la produttività. L'altro era il controllo a distanza che era previsto nel Job Act, che è una forma di legge. E terzo, qualora ce ne fosse la possibilità, un accordo anche sul costo del lavoro in termini temporanei. Non si firmava l'accordo, ma si dava tempo di valutarlo insieme ai lavoratori, alle rappresentanze dell'RSU. Ma quindi era una proroga dicendo va bene, ci mettiamo d'accordo che non decidiamo oggi, cioè che non la chiudiamo fra un'ora ma la chiudiamo fra tre mesi? Questo? Bravo. Questa è quella che è successo. È impensabile che di fronte a un licenziamento che sarebbe partito un'ora dopo non trovare la disponibilità a voler trovare ancora, come tutte le cose che accadono nel buon senso, ancora l'opportunità di trovare gli spazi, con l'appoggio del Ministero a mettersi in moto per trovare formule anche di commesse, di lavoro, di agevolazioni, di temporaneità, di fare tutto quello che serviva per cercare di aiutare questo benedetto. Però ci aiuti dramma a capire come mai, uno decide di non firmare. Esatto. Ecco, mettendo a rischio il proprio posto di lavoro in questo caso, perché non sono chiacchiere, si tratta proprio La legge prevede che l'RSU, le rappresentanze unitarie all'interno delle singole aziende, debba decidere se questa opportunità viene data o no. Mentre Napoli si è resa conto e ha voluto e ha cercato, dice noi vogliamo salvare i posti di lavoro e quindi vogliamo entrare in questa opportunità, in questa indicazione che il ministro dava, da noi accettata a livello confederale, hanno detto sì. Mentre a Roma, in termini molto repentori, hanno detto no. Cos'è accaduto un minuto dopo? È accaduto che all'interno delle singole realtà e soprattutto i lavoratori hanno iniziato a scrivere lettere dicendo che loro non vogliono che alcune rappresentanze abbiano determinato la condizione di non tentare l'iniziativa di mettere in campo questo benedetto però, accordo. Ma mi scusi, ma io invece le chiedo che cos'è successo un minuto prima più che un minuto dopo, nel senso se è veramente solo una proroga, come si fa a decidere di non firmare? O in cambio bisognava mollare qualcosa sul tavolo, oppure semplicemente se a mezzanotte meno uno dice scusate faccio una mozione, facciamo che abbiamo altri tre mesi di tempo, è impossibile non dire di sì, a meno che con questa mozione non bisogna lasciare qualcosa sul tavolo. Ma lasciare sul tavolo la mozione è tutta lì, non è che tu la devi lasciare per forza, hai tre mesi, l'unico problema che sotto alcuni aspetti ha determinato la condizione di rivolta dell'RSU di Roma è che a tre mesi, se non si trovava un'intesa, i licenziamenti venivano applicati. Quindi la paura del licenziamento. Però mi scusi Vitale, perché l'unica cosa che può togliere la certezza del proprio posto, di volersi attaccare al proprio posto di lavoro, è il fatto che questo posto di lavoro diventi in qualche modo, si ritenga che sia insopportabile perché si viene pagati troppo poco per quello che ci viene chiesto di fare. E quindi questo potrebbe essere la questione. Qual è oggi la condizione di lavoro in questi call center e quali sono le condizioni che poi generano, forse immagino, anche questa crisi che c'è nel settore? Allarghiamo un po' la discussione. Allora, i lavoratori dei call center, non oggi, ma da sempre, vivono una situazione di disagio, va bene? E le loro condizioni economiche negli ultimi 8 anni di crisi sono delle condizioni che hanno sempre destato delle forti preoccupazioni e delle forti lamentele. Io vi ho affermato che Calenda e il ministro hanno applicato due regole che da anni l'articolo 24 sarebbe il controllo, la delocalizzazione, il lavoro che viene spostato all'estero, loro hanno messo delle sanzioni forti per cercare di... Le sanzioni a chi? Spieghi meglio, scusi. A tutte le aziende che applicano questa legge sulla delocalizzazione che va fuori dalla comunità economica europea. Perché noi sappiamo che uno dei problemi, le chiedo però di confermarcelo, di spiegarcelo, sì, è che spesso alcune aziende fanno ricorso a dei subappalti o delle vere e proprie aziende che stanno all'estero, se non delocalizzando, si tratta proprio anche di appalti da parte di chi ha bisogno del servizio di call center che viene ceduto con aste spesso al ribasso all'estero, dove i costi sono naturalmente più bassi, o in Albania o addirittura in India, eccetera, eccetera. È questo, certo, uno dei punti. Certo, ma non vengono consegnati gli appalti all'estero, vengono consegnati a società italiane che partecipano alle gare. Che delocalizzano. E questo è uno dei temi che abbiamo affrontato, e nella legge di stabilità è stato approvato un decreto. E contro questo si può fare qualche cosa, certo, o certo, non si può fare niente, secondo voi? È stato già fatto, le sto dicendo, la legge di stabilità ha già applicato delle nuove regole dove chi attua al di fuori della comunità economica europea determinate delocalizzazioni è costretto a pagare multe salatissime, che non mettono più in condizione di avere di beneficiare di queste iniziative. E queste cose sono state approvate un mese fa. Allora, di fronte ad alcune iniziative che il governo ha messo in campo, dove il sindacato finalmente ha preso atto, voi dite bisogna dare il tempo a queste misure di entrare in funzione e trovare le formule. Se poi non si trovavano, avremmo poi fatto, non è che lì lasci sul campo qualcosa. Quando c'è crisi bisogna valutare se restare o no. Certo. Senta, quanti sono oggi i lavoratori interessati da questo settore dei call center in 80.000. Italia? 80.000. Beh, insomma, parliamo di un settore, io non conosco le cifre di tutti i settori, però mi sembrano non mi sembrano pochi. Quelli dell'Almaviva sono, se ho capito bene, circa 10.000. Sono circa 10.000, di cui interessati erano 2.511 e 1.600. 66 invece sono le persone su Roma. Ecco, quanti sono invece nelle condizioni di crisi dell'Almaviva tra questi 80.000? È possibile fare una stima? Tipo Almaviva, altre aziende? Sì. Ah, ma guardi... cioè, la posti di lavoro tra questi 80.000 che possono essere a rischio per queste crisi del settore? A rischio all'interno del settore. Ultimamente abbiamo circa 10.000 unità. Però con il problema dei licenziamenti solo Almaviva, altri invece su temi diversi, con contratti di solidarietà, con applicazione di alcune agevolazioni sulla modalità delle flessibilità. Ci sono dei temi che vengono affrontati nella quotidianità per ogni singola azienda. Ma mi scusi, ma le condizioni di questi dei lavoratori dei call center in Italia invece come sono? Perché noi spesso sentiamo sentiamo di situazioni anche un po' al limite, se non ben oltre il limite, quindi fra orari, fra il fatto di lavorare due ore, fra delle paghe che alla fine, facendo i conti, vengono fuori delle cifre irrisorie. Invece volevo capire com'è la situazione. Allora, la situazione di quelle che noi rappresentiamo in termini unitari, CGL, CISL, UIL e altre UGL e altre organizzazioni, hanno una situazione più di controllo, anche se le condizioni economiche sono quelle disastrose. Sono disastrose perché sono dei minimi contrattuali che purtroppo un lavoratore che fa 4 ore part-time prende intorno ai 600-700 euro. E mentre ci sono diverse migliaia di lavoratori che non lavorano sotto tutela, che certo, noi non conosciamo, lavora nero, sotto scale, di sotto del ribasso. Ma la cosa più strana, lo sa qual è? Che sono le aziende dello Stato e aziende dei committenti, quindi le grandi aziende, che scaricano sul costo al massimo ribasso per cercare di fare poi all'interno delle loro risultati economici, soprattutto utilizzando questa gente. niente. Certo, ma guardi, possiamo dire che ce ne accorgiamo, perché basta aver chiamato uno di questi call center per rendersi conto della qualità del servizio, quando invece in altre aziende pubbliche o private, a dire la verità, spesso si tratta di aziende private che fanno investimenti per valorizzare questa funzione essenziale, lo ripeto, del call center, perché per molti di noi è l'unica sponda, l'unico rapporto che hai con l'azienda. Ti trovi di fronte a call center efficientissimi e ti verrebbe voglia di abbracciarlo, no? Da quello che è dall'altra parte del filo, perché finalmente ti ha aiutato in quello che era una tua ricerca. Ed è impossibile, questo è importante, perché le aziende fate investimenti sui call center, perché alla fine i clienti tornano da voi. Se invece li lasciate a ribasso in questa maniera, tutto va a rotoli, si perdono posti di lavoro e le aziende anche però non ne hanno dei benefici. I ragazzi dei call center sono ammirevoli, vorrei vedere chiunque lavorare in turni anche abbastanza stressati, sempre con la cuffia in testa, rispondere alla gente, anche prendersi insulti, perché la gente non sa chi è dall'altra parte. Non solo, ma per ricordiamo che si può anche fare formazione, possono essere anche delle figure che crescono, ripeto, sono quando ti trovi dall'altra parte, prendono qualcuno, gli insulti, diciamo, esatto, perché fanno da capo espiatorio, nel senso che spesso gli insulti sono molto giusti, perché sono rivolti all'azienda, è che sì, il poverino, non a quel poverino che è lì che risponde, ma il problema è proprio quello, quei poverini poi riguardano molti ragazzi laureati, neolaureati, che non trovano collocazione, che erano entrati per un discorso di prima diciamo impatto al mondo del lavoro e che poi invece di uscire restano assolutamente. E ripeto, se poi di lì c'è un'evoluzione, la figura professionale cresce, c'è un investimento da parte dell'azienda in questa funzione, allora è un conto, ma se tutto si gioca sull'asta al ribasso, naturalmente qui è la fine di tutto. Noi la ringraziamo, Vito Antonio Vitale della Fist & Cheese, grazie per essere stato con noi e per averci aiutato un po' a capire cosa succede, il che c'è, come avrebbe detto Benigni, nei call center dell'Almaviva, tanto da meritarsi la firma di un accordo ponte che vale solo per Napoli, non per Roma. Sono quelle differenze che noi fatichiamo a capire, c'è qualcosa che non va sicuramente. Vitale ha provato a spiegarcelo, io non so se siamo riusciti in questa missione di servizio pubblico, Carlo, a chiarire gli aspetti, perché qua si entra nei meandri del contratto. Io sinceramente non è che abbia capito benissimo quello che ha detto il sindacalista, devo essere molto onesto, però 800 24 00 24, se invece voi cari ascoltatori siete rimasti convinti dal fatto, dalla bontà di questa trattativa, dalla firma di questo accordo, dagli interventi del governo che sono stati fatti, Vitale lo ha ricordato, a sostegno di questo settore dei call center, chiamateci, o anche se invece non siete stati convinti, noi siamo qua, 800 24 00 24. Vi aspettiamo anche per il gioco. Il gioco, un politico, un animale, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo Paolo che ci chiama da Brescia. Buongiorno, Paolo. Ciao Carlo, ciao Alessio, auguri, buon Natale. Auguri intanto anche a te. Ciao, buon Natale. Vai. Ciao. Allora, il politico che ho pensato io è Matteo Salvini, e lo paragonavo a uno sciacallo perché come uno sciacallo lucra sulle disgrazie che succedono in giro per l'Italia e per l'Europa. Ecco, io avevo detto stiamo cauti, stiamo su dei paragoni così, infatti sei partito subito a gamba tesa. Avevo tolto il porco, bisogna togliere anche lo sciacallo, però no. È un classico, Salvini sciacallo, è un classico, va bene Paolo. Non so se lo sciacallo ha qualcosa di buono che si possa rintracciare eventualmente anche in Salvini, no, non per fare buonista a tutti i costi, ma proprio per cercare di dare un verso diverso a questa storia. Comunque, mettiamo agli atti la tua telefonata, Paolo, e il primo intervento di oggi, ogni politico un animale. Partiamo dalla notizia del pesce di nome Obama, perché è stato scoperto questo nuovo pesce alle Hawaii. Dopo il pesce di nome Wanda, il pesce di nome è stato Obama, intitolato a Barack Obama in virtù del suo impegno nella protezione per l'ambiente. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vai. La mia domanda era questa: siccome sia come utilizzatore per una nota azienda telefonica io chiamo spesso un call center, e invece a livello di lavoro noi abbiamo una concorrenza particolare per un call center che opera dall'estero, mi interessava capire, cioè, la sanzione di cui si parlava prima, cioè, è retroattiva o ormai voi sono scappati e quindi tutti si sono organizzati e adesso arrivano le sanzioni, ma non so che effetto avranno. domanda. La sanzione per coloro che delocalizzano, sta dicendo? Esattamente. Perché ormai tu ti hai delocalizzato, cioè. Ma credo che però siano necessari dei requisiti, nel senso che non credo che sia vietato tu cura avere un call center che non sia in Italia. Credo che se tu ce l'hai già in Italia, però poi decidi di spostarlo, devi dare delle motivazioni. Però no, onestamente, esatto, non sono io sindacalista, quindi non sono in grado di rispondere. Io l'ho detto che Vitale non è stato, secondo me, in grado di dare una grande delucidazione, una grande chiarificazione sulla crisi del settore. Un po' sì, ma lui ha detto sostanzialmente: diamo tempo a queste misure appena prese dal governo, che prevedono tra l'altro questo tipo di sanzioni, di effettuare così di avere le loro conseguenze su questo mercato dei call center, in modo che i nuovi contratti e le nuove trattative aziendali saranno orientate da queste misure positive. Però restano i dubbi che possa bastare quella cosa lì. La tua domanda, Alessandro, io non so dare una risposta se sia retroattiva oppure no, cioè se vale soltanto per chi delocalizza da adesso in poi o anche per chi lo ha già fatto. Staremo a vedere. Non so se volevi aggiungere qualcosa o anche... No, grazie. Sì. Vabbè, o anche semplicemente aggiungere un paragone tra un animale e un politico, se ti viene in mente qualcosa. No, no, grazie. Niente da segnalare. Va bene, Alessandro, grazie, ciao. Andiamo con Adriana, che chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Sono Adriana e vi faccio gli auguri, buon Natale. Grazie. E volevo rispondere appunto per il politico e associarlo all'animale. Secondo me Amato assomiglia a un topo. Giuliano Amato. I nostri risparmi. Ha divorato i risparmi. Ah, c'era anche la battuta in fondo. Sì, pensavo che fosse solamente fisionomica, invece giustamente o non giustamente, insomma, è un commento politico. Tra il 9 e il 10 di luglio del 92 arriverò con un famoso 6 per 1000, sì, i nostri risparmi, e quindi assomiglia anche tantissimo a un topo. Lei è andata con la memoria, Adriana, quanti anni fa sono passati? È avvenuto 24. Nel 92. Ahimè, 24 anni fa, eh? Io me lo ricordo bene, quindi questo mi fa capire anche che ormai, insomma, abbiamo un'età, Adriana, e quello fu un passaggio storico, la famosa tassa per l'ingresso, insomma, nell'euro, eccetera, eccetera. La famosa una tantum, sì, che sì, poi sì, dopo sì, sì, ne fecero un'altra e qualcuno disse questa è una semper. È una leggenda, tra l'altro, cioè una leggenda, una storia, ma è diventata anche leggenda sulle modalità in cui avvenne in una notte il ratto, eccetera, eccetera, appunto, e quindi il topo. Siamo arrivati a conclusione. Grazie, Adriana. Grazie. E quindi abbiamo per ora Salvini sciacallo, Amato topo. Mi sa che era inevitabile che si andasse. Sarà questo il crinale. Sarà sì, questo il crinale. Sì. 800 24 0024, vi aspettiamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. L'incendio di un tramonto nel buio della sera, la luce dei lampioni su queste strade di cera, guidando verso nord in un lunedì da cani, comete di ricordi ad indicare il mio domani. Il tempo passa dritto, non prova nostalgia, e lascia dentro gli occhi l'amarezza e l'allegria. Generazioni in ciclo, con le loro convinzioni, che mescolano i sogni a una manciata di canzoni. La vita è un uragano che ci strappa le vele, un'autostrada in fiamme con curve di miele. È una tempesta, è un tuffo dentro un cerchio di fuoco. La vita è un gioco, la vita è un gioco da eroi. E allora andiamo ancora a Napoli, perché dopo il caffè sospeso arriva il giocattolo sospeso, una iniziativa di solidarietà sotto Natale di cui ci parla Alessandra Clemente, assessore alle politiche giovanili di Napoli. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Ciao. Allora, a Natale cerchiamo tutti di essere più buoni, è vero. Poi ci si riesce, non ci si riesce, ci rimangono i sensi di colpa. Uno esce di casa la mattina, c'è quello a cui devi fare l'elemosina, c'è quell'altro che ti chiede un aiuto per salvare i bambini in Africa, ti senti sempre di più in colpa. Però al di là di questo, Natale è proprio un momento nel quale non si può essere felici da soli, bisogna essere felici in gruppo. E questo fa proprio parte del, come dire, il marchio di fabbrica di questo momento, una rinascita per tutti. Quindi ci piace l'idea che a Napoli sia nata questa iniziativa. Come funziona? Ce lo vuole spiegare? Riguarda naturalmente i commercianti di giocattoli, ma anche chi va a fare acquisti. Oggi c'è un'ultima, credo, intera giornata, no? Di ancora, l'ultima chiama. L'ultima chiama per i ritardatari, quindi siamo ancora in tempo per... Io sono fra quelli, infatti devo finire la trasmissione che devo ancora fare tutti i regali. Prego, assessore. Sì, un'iniziativa piccola ma estremamente potente. Natale è la sfida che ognuno di noi deve avere di comprendere l'altro, non la nostra vita. Allora noi abbiamo messo in campo una rete di giocattolerie storiche della città di Napoli. Che sono tante, poi le chiedo anche di fare i nomi perché sono tante e meritano di essere nominate. Prego. Grazie. Sono una ventina, Vespoli, Leonetti, la giocattoleria, la Girandola. Sul sito del Comune di Napoli c'è l'elenco con l'indirizzo, sono distribuite su tutto il territorio cittadino. Oltre che essere le giocattolerie storiche, sono anche degli imprenditori, dei commercianti che rientrano nella rete dell'antiracket della città di Napoli. Quindi loro sono in prima linea, ci mettono la faccia e sostengono tante operazioni difficili anche di denuncia, ma belle anche di consumo critico. E allora noi abbiamo lanciato questo appello ai napoletani, ai tanti ospiti della nostra città in queste giornate di festa. Si reca nel negozio al momento dell'acquisto di un giocattolo, non so, per la nipotina, per il cuginetto, per i propri figli. Ognuno di noi ha la possibilità di acquistarne anche un altro, di lasciarlo presso la giocattoleria. Ma si deve proprio acquistare il giocattolo o si può lasciare anche una piccola, non so, 5 euro? No, si deve acquistare il giocattolo. Si deve scegliere un giocattolo. Bisogna comprarlo tutto, giustamente. Bisogna sceglierlo, c'è chi... vorrà magari un qualcosa dedicato all'arte o qualcosa invece dedicato a una bella bambola per una bambina. Certo, chi si sentirà di spendere 5, 10, chi 20 o più euro, insomma. Esatto, questo è libero, è lasciata la libertà. Esatto, c'è anche una sezione dedicata per i bambini speciali che hanno esigenze speciali. Infatti questa iniziativa nasce anche con il supporto di un'associazione molto importante sul territorio napoletano che è Tutti a Scuola, il presidente Tony Nocchetti, e sono famiglie di bambine e bambini con disabilità. Ed è anche molto bello questo, ci sono in queste giocattolerie selezionate dal Comune di Napoli un'offerta professionale specifica sia per forme di autismo che per forme per disabilità, e anche questa cosa ci ha convinto molto e ci è piaciuta molto. Viene rilasciato al donatore uno scontrino di cortesia. Il nome del donatore viene apposto all'interno di un elenco, l'elenco dei donatori della città di Napoli, che verrà reso pubblico, salva la volontà espressa in tal senso da parte di colui il quale procede all'acquisto. Tante persone invece preferiscono un riservo e quindi è giusto anche rispettare questo. E poi come funziona nell'altro, nel momento che invece... Il momento di chi prende. Esatto. Il momento del ritiro, certo. Colui il quale abbia una necessità economica può rivolgersi sia direttamente in anonimato, in completo riservo, presso le giocattolerie, dovrà rilasciare una copia del documento di identità. I giocattolai lo trasferiscono ai servizi del Comune di Napoli, noi faremo una piccola verifica per quanto riguarda lo stato di famiglia di questa persona e immediatamente verrà ricontattato e il giocattolo viene donato. Qualcuno dirà donato. Che fate una schedatura, che volete schedare le persone, i più poveri, eccetera, eccetera. Adesso mi sto già immedesimando da parte di chi deve trovare, o può anche legittimamente trovare, un aspetto critico, un pelo nell'uovo. Al di là di questo, questa verifica va fatta per evitare che qualcuno possa fare il furbo? E questo punto. Esattamente, per evitare dei furbetti che magari possono approfittare quelli della giocattoleria di fianco, per esempio, che non partecipa. Bravo. Giustamente possiamo dire anche che porta molta sfiga andare a come dire, bravo, bravissimo. E devo dire, ormai sono 15 giorni e non abbiamo registrato alcun tipo di comportamento, cioè, approfittarsi di una cosa così, sai, bello, questo è molto, esatto, bello, molto bello. Devo dire, sai, il caffè sospeso è un must della cultura napoletana, certo. E si è reso forte proprio per la qualità dei napoletani che mai hanno abusato di un qualcosa del genere, e devo dire anche questo si sta verificando. È straordinario, certo. Come quindi... sia proprio Napoli che ha sempre è all'origine di queste iniziative di solidarietà, pur nelle difficoltà che non mancano, certo. Pensiamo alla disoccupazione alta che c'è sicuramente, non è facile oggi essere un ragazzo o essere un disoccupato a Napoli, però proprio lì poi nascono queste cose di solidarietà e ci fa molto piacere naturalmente. Ma quindi c'è un tempo da aspettare, nel senso che io vado nella giocattoleria, do il mio documento, viene comunicato stesso in giornata. Ah, perfetto, volevo tranquillizzare chi fosse in ascolto. Delicato. Però, è molto delicato, sì? E anche informale, voglio certo. dire, non è una procedura, però è un senso anche di tutela e di fiducia nei confronti di chi dona. Esatto, certo. Quindi mi piace. Abbiamo... Poi sceglie a quel punto, può scegliere certo. il regalo o prende un pacchetto al buio? Giusto. Può sceglierlo se è una bambina, se è un bambino, in base all'età, oppure se c'è certo. un bimbo con una disabilità. Ah, giusto, giustissimo, perfetto. Quindi aspetto... è una sorpresa, è bellissima, è il primo regalo che è una sorpresa anche per chi lo fa. Esatto, molto esatto, bello. Ma esatto. mi incuriosiva anche la questione dello scontrino di cortesia e soprattutto del nome. Cioè, io che vado in negozio e ricevo il giocattolo sospeso, posso sapere se a farmelo è stato Mario o Peter o Carlo o Alessio? Allora, un desiderio di questo tipo viene registrato dal commerciante, dal giocattolaio, viene trasmesso all'amministrazione comunale. Noi dobbiamo verificare se la persona che ha donato ha voluto il riservo, questo non c'è possibile risalire alla persona. Se invece ha lasciato il suo nome, noi proviamo a contattarlo, a chiedergli la sua disponibilità all'incontro. Anche solo il nome di battesimo, anche all'incontro, anche all'incontro. Ma anche semplicemente il nome di battesimo a volte può bastare per dare un nome ideale, se non esatto. proprio un volto concreto in carne e ossa alla persona che è stata generosa. La forza di questa iniziativa è che ecco, proprio questa notte, no? quando arriva Babbo Natale, i bambini che vivono delle condizioni familiari di difficoltà hanno un regalo sotto l'albero, quindi c'era proprio l'esigenza di non discriminare nella giornata della vigilia del 24 e del 25. Qualora, e questo è anche un dato, fossero ancora dei giocattoli presso le giocattolerie, io stessa sono andata l'altro giorno in una giocattoleria e chiedevo ma oggi quanti giocattoli sospesi sono stati lasciati? Quanti ce n'erano? E mi diceva Carlo, che è il proprietario di sì. questa giocattoleria, che ieri ce n'erano 10 e che bene, ne aveva ancora 8, che nessuno era andato a molto prenderlo. Molto bene, andate, io dico anche questo perché mi sembra che la generosità non manchi da parte di chi può in qualche modo permetterselo, anche se a volte basta veramente poco, perché lo sappiamo tutti che i bambini si esaltano con poco, quindi basta poco, basta la sorpresa, però anche voi che immaginate di poterne avere bisogno o sapete benissimo di avere bisogno, non abbiate timore, insomma, entrate esatto. in un negozio, magari fate un acquisto oppure no, e però se ne avete diritto potete anche ricevere il giocattolo sospeso, sarebbe un peccato che rimanessero lì quando invece magari c'è qualcuno che ne ha bisogno. Ripeto, a Natale ci sono tante feste nelle quali uno può essere felice per conto suo, con la propria famiglia, individualmente. Natale invece la felicità di ognuno di noi si rispecchia necessariamente in quella degli altri, quindi grazie ancora modo. Per questa iniziativa, grazie, assessore Clemente, in bocca al lupo. Grazie a voi e quelli che restano sì. come giocattoli, qualora noi organizzeremo per la Befana una consegna e sarei felicissima magari di avervi. Vi prendete un treno, venite un'oretta a Napoli e faremo una consegna. Io vengo a fare la Befana, è un bellissimo. No. Io invece vengo molto volentieri a fare la Befana. Invito accolto, purché non sia in un momento di orario di trasmissione del programma, e lì bisognerà discuterne. Comunque, grazie. No, grazie mille. E buon Natale anche a lei e a tutti i napoletani. Abbiamo ancora un minutino prima di chiudere, ce l'abbiamo, sì, per sentire almeno un ascoltatore. Salvatore dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Senta, io ho sentito, io sono stato un commerciante, ho avuto una libreria, sì. Adesso ho smesso e vorrei ecco, aiutare tanta gente che è più povera di me, che ha bisogno tanto. Ci sono tanti modi per farlo. Come si può fare? Insomma, guarda, ecco. Ci sono tanti modi. Aprire, non so, ho un magazzino ecco, strapieno di libri. Allora un momento, potrei aprire con qualche biblioteca in queste zone terremotate. Parliamone dopo il giornale radio, la richiamiamo, resti in collegamento perché qui alla telefonata si fa interessante. È complicata. È complicata. Tra poco. festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E i cowboy vanno a Milan con la cravatta e la giacchetta blu, cercano i sogni de seconda man, cercano le donne che han visto alla TV. E i cowboy vanno a Milan con lo stipendio LMS blu, han pochi soldi e i vengono de lontan, e una vita sola non gli basta più. E allora ciò, che se ti rufa deco. E allora ciò, che se ti rufa deco. E allora, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Quando sono le 9:08, siccome a Natale ci si stringe con i propri familiari, con i propri amici, con i propri cari, noi oggi ci stringiamo insieme a Davide Badesfross, che è tornato. Buongiorno a tutti. A trovarci. Perché è il nostro ospite più ricorrente, quindi in qualche modo fa parte della nostra famiglia. E perché ha annunciato un importante concerto, una data, Vuoi conquistare l'universo, il concerto a San Siro, il Tempio del Rock, ci hanno suonato Springsteen, Bob Marley, Vasco Rossi naturalmente. Pam, quest'anno è scattato qualcosa. Sì, ma poi ci ha giocato anche il Milan, l'Inter, esatto, la Juve, il che fa tra ancora un concerto più, e l'altro, fa sì, ancora più paura, visto che io, come tutti ben sanno, non ho mai giocato neanche all'oratorio col pallone, cioè qualche volta. Quindi sì, una mi hanno doppia messo, sfida per è te, una cosa terrificante, cioè una cosa, ma posso garantirvi che è vera, perché ho visto la gente con in mano i biglietti. Finché non ho visto la gente con in mano i biglietti, anch'io credevo magari che sono quelle cose che si dicono ma poi ti svegli, no? E invece è vera. San Siro, tra l'altro, all'inizio proprio della stagione concertistica, perché stiamo parlando del 9 giugno, sempre che voi non mi diciate che è un'altra data. No, 9 giugno. Siamo sicuri. Beh, noi speriamo che sia 9:10 ovviamente, ma quello dipenderà dalle vendite dei biglietti. Quello... di tempo ce n'è per comprare il biglietto, ma conviene muoversi. Allora, già gli ascoltatori, grande Davide, a San Siro in pole position, stanno scrivendo, eccetera, eccetera. Il 9 giugno i biglietti sono già in prevendita su Viva Ticket, quindi questa è un'informazione che vi vogliamo dare. Qual è la tua canzone di Natale preferita, oppure non ne hai una canzone di Natale? Ma, oddio, devo dire che da bambino queste canzoni mi facevano attorcigliare delle cose interne, mi commuovevano. Adesso mi creano un po' di disagio. No, allergia, mi creano del disagio perché c'è una specie di gap spazio temporale tra quello che è diventato il Natale, quello che mi ricordo, tendo un po' alla depressione quando le sento. C'era una canzone in tedesco che mi avevano portato dei parenti, che da bambino mi commuoveva molto, specialmente se c'era un po' di neve. Forse si intitolava Stille Nacht. Cosa del genere. Stille Nacht. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24. Riprendiamo da voi, dopo aver parlato questa mattina, aver dedicato un pensiero e una piccola riflessione ai lavoratori dei call center dell'Alma Viva, all'indomani della firma di un accordo che però non è stato sottoscritto dai lavoratori di Roma, 1500 sono a rischio, dopo aver parlato tra l'altro dell'iniziativa di Napoli, del giocattolo sospeso nei negozi di questa generosa città, ci dedichiamo a voi. Avevamo in onda Salvatore dalla provincia di Roma. Salvatore, eccoti qua di nuovo, e ci stavi raccontando di come tu vorresti aiutare il prossimo, e soprattutto che hai un magazzino di libri. Io sono interessatissimo. Interessante. Considera una grossa libreria, insomma, che adesso ho chiusa perché in quel posto lì si legge ben poco, e quindi In quel posto lì che possiamo saperlo o no? Prego? In quel posto lì che possiamo saperlo o hai paura di ritorsioni? Sì, certo, Frosinone. Ecco, ah, Frosinone. Senti, Salvatore, tu ci hai chiesto un modo per poter aiutare utilizzando questa tua, diciamo, patrimonio, che sono questi libri che hai, che ti derivano da quando avevi il negozio. Io lì per lì non sapevo cosa dirti. Adesso ci ho pensato durante il giornale radio. Una cosa che mi è venuta in mente è mandali a delle scuole elementari, scuole medie, a rimpolpare le biblioteche. Sappiamo che le scuole spesso non hanno molte risorse, potrebbe essere un modo, ne battezzi alcune. Sì, per le zone terremotate, scusi per se esempio, la interrompo. Certo, per esempio nelle zone terremotate. Salvatore, volevi chiuderla qua o volevi anche giocare con noi un politico, un animale? Oggi vi chiediamo, siccome è stato dedicato un pesce al presidente, all'ex presidente Obama, il pesce Obama, allora noi vi chiediamo un politico, un animale. Qual è la tua associazione, Salvatore? Il senatore Scilipoti, insomma. Sì, sì. Adesso, un'aquila, un rapace. Un'aquila, mi permetto di dissentire, se posso, un'aquila proprio. Però... Ecco, sì, una di... Ma perché? Andiamo su un rapace generico. Perché tutto sta, Salvatore, nella motivazione. Dacci una motivazione plausibile, così puoi concorrere al gioco, eventualmente vincere i biglietti di Basquiat, Mudek di Milano. Perché mi sta perseguitando, insomma. Ti sta perseguitando, a te personalmente. Va bene, Salvatore. Ma anche perché ha scritto un libro, ricordo, Scilipoti, perché lo faccio spesso come esempio per dire che comunque, insomma, non bisogna vietare i libri, anche se anche Scilipoti ha scritto un libro, ma quanti ce n'è nel tuo magazzino, perché non vorremmo che regalassi il libro di Scilipoti a tutte le scuole di Frosinone. No, le scuole di Frosinone, io voglio aiutare a queste zone, le scuole di queste zone terremotate. Va bene. Ok, grazie Salvatore. Mille. Buona giornata. Andiamo con Gavino che chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sono in linea, sì, perché tra un'oretta devo partire al mio paese, Sardegna. Ah, quindi bene. Ero in linea apposta. Si torna a casa, prego. Sì, vado alle feste in casa. Sì. Certo, e dov'è adesso invece? Sono a Milano, abito a Milano io. Perfetto. Okay. Ma hai chiamato per darci le tue coordinate o per intervenire? No, diciamo, ho chiamato per associare un politico a un animale. Ah, pensavo che volessi risparmiare sulla telefonata e dici chiamo in radio così poi mi sentono anche in Sardegna. No. Vado tra un'ora dove partire, perché perfetto. Vado sempre per le feste. Certo. Allora ho detto chiamiamo, ho sentito la trasmissione, tanto mi sento sempre, ho chiamato appunto perché... Vai, ma chi è l'animale? Gavino, l'animale, vai. L'introduzione è bellissima. Renzi l'associa a una volpe. Ah, vabbè, sì, questo perché è proprio l'animale giusto per lui, perché appunto controlla bene il territorio, sa quando deve, praticamente sa come anche come se a sto giro una volpe, esatto, anche se a sto giro gli è un po' sfuggito il territorio. Davide Van der Floss annuiva, sei d'accordo? Poco tempo fa, quando avete parlato di questa arca di Noè del esatto. politico animale, ho visto lì proprio questo manifestino con la faccia di Renzi, ho detto certo che Renzi sembra proprio una volpe, e adesso Gavino ha detto esattamente la stessa cosa. Vedi, non è che ho pensato un altro politico, un altro animale, proprio la stessa cosa. Però adesso io non me ne intendo molto di animali, però dopo il 4 dicembre che cosa è successo? Non so se le volpi vanno in letargo le volpi? No, non c'è più l'ascoltatore di certo, prima. Le volpi devono stare attenti. Pensa che la volpe è... la guardavano anche i druidi celti, perché quando lei attraversava un lago ghiacciato, allora sapevano che si poteva camminare su quel lago ghiacciato. Pare che questa regola valga sempre meno il 4 dicembre, meno m'hanno detto dei druidi, non ne sono sicuro. In politica penso che non sia la stessa cosa, no. Però sul lago ghiacciato ci cammini solo se ci ha camminato la volpe. Allora, cari ascoltatori che state in attesa anche per intervenire, sappiate che ogni animale, ogni politico che direte, c'è un commento pronto di Davide Van der Floss che ne sa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Va che bel, ma che bel, tu c'conscial carel, panetton, un zampon e anche un bel turon. Ha! Natale consumistico. E allora gli auguri di Natale in musica di Davide Van der Sfross. 9:18, cari ascoltatori, ben ritrovati. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Stiamo insieme questa mattina fino alle 10, oltre che insieme a Davide Van der Sfross, insieme a voi ascoltatori. Ne abbiamo ancora alcuni in linea, poi tra poco ci sarà il crowdfunding, naturalmente i progetti che cercano il vostro aiuto dal basso, che non vanno in vacanza. E però adesso abbiamo Matteo che chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Matteo. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Sono emozionatissimo, oggi c'è anche Davide, sono molto emozionato. Sei un fan di Davide? Sono un fan, è stato meraviglioso il concerto con tutta l'orchestra che ha fatto proprio quest'anno. Mio figlio suona il violino e è stato anche per lui modo di conoscerlo. Lui vedi è che noi ci pensiamo a voi ascoltatori di Radio. E tendo un po' alla commozione con l'età, poi sotto le feste questa cosa si intensifica. Qui andateci grazie. Piano con i grazie complimenti. Auguri anche al figlio violinista ovviamente. Se no mi si commuove qua il Davide. Confermo che Davide è commosso. Anche perché poi l'abbiamo presentato qua l'evento con sì, l'orchestra. Esatto, da cui il brano che abbiamo fatto sentire prima, perché volevamo farvi lo scherzetto di dirvi che avevamo tutta l'orchestra in studio, invece in realtà abbiamo Davide. Quando c'è solo chitarra e Davide dal vivo qui con noi, quando invece sentite l'orchestra è il concertone di cui abbiamo parlato, e poi dopo tutto l'anno prossimo invece faremo sentire il concerto del 9 giugno a San Siro. Sì. Matteo, su cosa volevi intervenire? Naturalmente animale politico, prima devo dire una cosa perché sì. È un devo mio, ragazzi, si può fare, è difficile, proprio per questo è più bello, si può fare, grazie per la carica che date, ho un piccolo negozio. Grazie e... a te. E vi ringrazio per questo. Politico, sono un po' anticonformista, prima voi avete accennato a Trump, sì. Per me Trump dopo tutto poggio e buche, lo prendo anche come esempio, mi riferisco a una intervista che ha fatto con in televisione con un gruppo di ragazzi, una ragazza gli ha chiesto ma come fa una ragazza normale come me a avere successo come ha avuto lei, e lui ha detto la prima cosa è non sei una ragazza normale, ognuno di noi è speciale. Ok, quindi L'Aquila, prima era stato nominato Scilipoti come Aquila, sì, sì. Sbagliando, l'Aquila secondo credo me anch'io. vede lungo. E quindi io Trump Aquila. Va bene, mettiamo agli atti anche questa risposta. Grazie Matteo. Una curiosità, Matteo, hai un negozio, hai detto si può fare, ho un negozio, volevi dire qualcosa sul giocattolo sospeso, su qualcos'altro? Sì, mi piace moltissimo. Io ho un negozio di occhiali, sono un optometrista. Possiamo immaginare l'occhiale sospeso? Un po' più complicato. Sarebbe bellissimo, sarebbe veramente una ci bella... Ci lavoriamo e poi esatto. Vediamo. Grazie. Grazie mille. Auguri anche a te. Io sto riflettendo perché sta cosa qui del Trump, Aquila, Trump, Trampoliere, Donald Duck, Papero. Ma se fosse la pavoncella, che la pavoncella, attenzione, perché la pavoncella quando cova le uova le mette da una parte, lei si mette dalla parte opposta a fare il richiamo per disorientare colui che volesse prendergliele. Ma sei un espertissimo di animali. Ma io guarda che... Di cretinate ne dico, ma anche di cose vere, perché i druidi dicevano che se tu ti avvicinavi per rubare le uova della pavoncella, la pavoncella arrivava e si metteva a volare come ferita, come se gli si fosse rotto un'ala per disorientarti. Che tra il papero e l'aquila, la pavoncella secondo me merita, quindi iscriviamo anche Davide al gioco a la questo pavoncella punto. Ma poi... soprattutto è un veggente, perché sì. Prima ha beccato quello che avrebbe detto l'ascoltatore, adesso durante la pausa di nuovo Davide mi parlava di Trump ed è uscito Trump, quindi i druidi sono i druidi, se dopo ci dai anche dei numeri, nel senso che i druidi bellissimi, però il super enalotto a me non fa schifo. Giochiamo, si fa in fretta. Andiamo anche con Lella da Milano. Buongiorno. Poi tra poco parleremo di etichette, perché noi ci non siamo fissati. Camilla, con la non è la Camilla, sono io che devo parlare. Sì, ma devo... Lella, calma, Lella, in onda, in diretta, sulla radio. La pavoncella. Salve, buongiorno. Buongiorno, è in onda, benvenuta. Scusi che mi asciugo le mani, io sto pulendo le mazzancolle. Ma non si preoccupi. Senta, io trovo una somiglianza, però in positivo, sì. Del presidente Gentiloni con un pechinese per via di quei capelli. Per i capelli. Però mi piacciono, gli donano. E poi mi piace molto che non si tinga i capelli. Ma il pechinese è il cane, intende? Mi dispiace, ma per rinunciare a un francesismo direi che fanno tanto tristezza. Ecco. Vabbè, quindi Gentiloni, senza però retropensieri sul fatto che il suo è un governo da cani, o il fatto, come ho detto io, che è fedele, quindi fedele a Renzi, sottinteso, eccetera eccetera, così, per la capigliatura, va bene, la prendiamo così. No, un momento, aspetti, però la capigliatura è un segno di sincerità, secondo me. Certo. La capigliatura è un segno di sincerità. Io qua mi arrendo, nel senso dipende, che non ho capito. Però. Cioè, tutte le capigliature sono un segno di sincerità? Un messaggio, perdoni, al presidente Gentiloni. Buon Natale a tutti e dirgli, presidente, onestà non solo, ma sincerità coi cittadini. Cioè, grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Nasceri. Onestate così. È un souvenir. Solo perché ti ricordi di me. Oh sherry sherry, una notte così, vuoi che non sia made in Italy? E tu sherry, devi dirmi di sì. Sherry, sherry. Allora, sul Made in Italy abbiamo una notizia che riguarda, come anticipavo poco fa, le etichette. Noi ci siamo praticamente, Carlo, siamo dei fissati, siamo proprio fissati, cioè il rebus dell'etichetta. Noi ormai non ci interessa altro che le etichette, etichette trasparenti, quella del latte è stata appena approvata, adesso c'è l'etichetta. E ci chiediamo anche se si sta esagerando, forse tutto nell'etichetta, le etichette lunghissime, però l'etichetta è lo strumento in mano al consumatore. Etichetta della pasta con l'indicazione di provenienza del grano. Il governo ha appena inviato alla Commissione europea un decreto che introduce l'obbligo per i produttori di pasta di indicare il paese di provenienza del grano. Secondo questo decreto, le confezioni di pasta prodotte in Italia devono riportare ben in vista l'indicazione del paese in cui è stato coltivato e macinato il grano. Allora, questa questione però non trova compatti tutta la filiera italiana, perché da un lato abbiamo schierati gli agricoltori con la Coldiretti che dicono bene, un traguardo importante, dall'altro ci sono alcuni produttori, tra cui la Barilla in testa, che dice fermi, no, non è questo quello che ci aspettavamo. Allora, noi abbiamo scelto di parlarne questa mattina con un esponente della Coldiretti, Lorenzo Bazzana. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Responsabile Buongiorno. Economico della Coldiretti. Allora, prima di arrivare alla polemica, insomma, ci vuole spiegare la polemica o alle due distinte posizioni su questa questione, di cosa si tratta, qual è la novità introdotta, che poi non è ancora introdotta perché si tratta di un, come dire, di un decreto che deve trovare successiva attuazione, ma qual è la novità di cui stiamo parlando? Beh, la novità sarebbe quella appunto di avere finalmente in etichetta il paese in cui è stato coltivato il grano, ovvero sia la pasta è ottenuta dal grano che viene lavorato per ottenere la semola, quindi a sua volta poi si ottiene la pasta. Noi crediamo che sia un principio di trasparenza fare in modo che il consumatore che paga per avere un prodotto sappia se quel prodotto è stato ottenuto da un grano coltivato in Italia oppure da una miscela di grani di altre provenienze. E qua sembrerebbe tutto normale, insomma, uno dice scrivi semplicemente l'origine. Una massima trasparenza. Guardate che l'etichettatura è quanto di più democratico possa esistere, perché di per sé l'etichettatura non favorisce e non condanna nessuno. E poi ognuno sceglie. Un'informazione che mette nel condizione il consumatore di fare degli acquisti con però consapevolezza. Qua Bazzana, viene la prima obiezione di Barilla, che dice l'origine del grano da sola di per sé non è sinonimo di qualità. Questa è proprio la frase che hanno detto virgolettato loro. A sottintendere quasi invece che ci possa essere del grano prodotto all'estero che noi importiamo, cui facciamo la pasta, che è migliore di quello italiano. Cosa risponde? Ce n'è di migliore e ce n'è di peggiore. Quest'anno ho raccolto in Canada, che è il paese totem per i pastai, da cui dicono di dover importare il grano perché migliora quello italiano. Quest'anno il Canada ha avuto dei problemi di ordine climatico e quindi c'è circa il 30% del grano del Canada che non potrà essere utilizzato per l'alimentazione umana, ma addirittura verrà declassato a fini mangimistici. Quindi è chiaro che l'origine di per sé non fa la qualità. Però l'origine è un elemento importante, perché noi sappiamo che comunque abbiamo una tradizione, che comunque i nostri prodotti sono legati al territorio, si vede ad esempio il vino, e quindi è importante per il consumatore, e questo se ne hanno detto in sondaggi fatti dal Ministero delle Politiche Agricole, che più dell'81% degli italiani vuole sapere da dove viene il grano che è stato utilizzato per fare la pasta, ad esempio. Quindi è un fatto di trasparenza, dopodiché ognuno dei consumatori valuterà il prezzo, la qualità del prodotto, e deciderà se andare avanti a comprare un grano fatto con una pasta fatta col grano 100% italiano o una miscela o altre cose ancora. Certo, però è strano che le stesse industrie che fanno delle linee 100% grano italiano poi ci vengono a dire che ma però insomma questo decreto viene a essere un decreto che può fuorviare, eccetera eccetera. Ma le volevo chiedere, mi scusi, la trasparenza è fondamentale. Certo, ma le chiedevo se non è anche un po' un autogol, visto che l'Italia non produce sufficiente grano nemmeno per se stessa, figurarsi per l'esportazione. Ma e siccome perché deve essere un autogol? No, glielo sto chiedendo. Informare il consumatore significa dare al consumatore degli strumenti in trasparenza. È un autogol se le cose che facciamo sono fatte male. Ho capito, però siccome ha ragionissimo, però penso che sia diverso. Un conto è nel momento che uno legge un prodotto italiano, oppure se inizia a leggere grano messicano. Perché lei crede che il caffè o il cioccolato che viene trasformato in Italia abbia una materia prima coltivata in Italia? Ma io no, non so, lei? Basta, però ci mancherebbe altro. Ma perché dovremmo produrre noi il cacao? Perché non siamo in grado, non abbiamo prima per poterlo fare. Appunto, però vede che l'industria del cacao sulle confezioni scrive da dove viene quel cacao, perché ritiene che il legame della materia prima con il territorio sia un plus. Ma sia certo, un valore perché e lo stesso col caffè, mi dicono le migliori miscele provenienti dai paesi più vocati alla coltivazione del caffè. Esatto, ma allora, è evidente. Mi scusi, ma è evidente questo. Ma noi siamo tutti per la trasparenza, quindi non è che stiamo pensando che sia sbagliata l'etichetta. Stavamo ponendo dei dubbi, vorrei chiedere perché anche giustamente a Davide, nel frattempo, se ha qualcosa perché giustamente su questo, perché sul secondo me ce l'ha. Vediamo tra giustamente poco. Sul caffè lei sta dicendo è un plus nel momento che viene prodotto nei paesi che producono il caffè. Siccome noi siamo un paese famosissimo, anzi il più famoso per produrre la pasta, ci sono dei produttori, ovvero i pastai, che dicono è importante come si fa la pasta, se poi io ci metto dentro il 10% di grano messicano non è un problema questo, anche perché noi il grano non ne abbiamo a sufficienza. Ma il consumatore non lo deve sapere? No, non è che non lo deve sapere, è come quando, scusi, perché è un po' difficile informarsi. È come quando io voglio comprare una macchina, va bene, una macchina italiana, e non mi viene detto se quella macchina italiana è fatta realmente in Italia o è fatta in un altro paese. Un'altra cosa, l'ultima domanda velocissima che le faccio, un'altra obiezione che io le riporto di Barilla, è che dice si potrebbe arrivare a pagare di più una pasta meno buona. È possibile questo secondo lei? Perché sarebbero le tasse sull'importazione? Lo decide il mercato, nel senso che il mercato, lo scaffale gireranno quei prodotti che hanno un mix di compromesso tra qualità e prezzo che soddisfa il consumatore. Essendo alla una materia prima importata in concorrenza con un prodotto italiano, potrebbero esserci sopra delle... Ma è già così adesso. Quindi non è possibile adesso, secondo lei, che possa avvenire capire, questo. Benissimo. Vorrei capire qual è il timore di fronte invece al problema di dire che oggi la pasta è tutta italiana e il consumatore, magari canadese, scopre che invece nella pasta italiana, perché nessuno gliel'ha mai detto, c'è dentro il grano del Canada. Assolutamente. Guardi, io personalmente sono pienamente d'accordo con lei. Ci sono altri punti di vista, noi le abbiamo chiesto, le abbiamo riproposto quelle che sono le perplessità di una parte della filiera, perché sarebbe anche bello invece che si andasse tutti a braccetto, ma non è così. Resti con noi un attimo, Bazzana, perché Davide aveva qualcosa su... Voglio una pasta canadese per andare in campeggio, una pasta che tiri via il peggio, però penso al mio amico celiaco che vorrebbe sapere da che parte del mondo arriva quel grano che lo fa soffrire. Bazzana, senta, a parte i celiaci che credo non siano direttamente coinvolti in questa cosa, le chiedo un'ultima, in questo caso una un'informazione. Questo provvedimento è ancora allo studio, ci sono ancora dei passaggi, non si tratta di una normativa già approvata, che cosa accadrà? È un provvedimento che nella linea che è stata tracciata dall'Unione Europea di dare la possibilità ai paesi come ad esempio la Francia di poter mettere in piedi un sistema di etichettatura che dia maggiore trasparenza alle filiere, come giustamente dicevate voi prima per quello quindi che riguarda il latte. Quindi inizia, come è stato per il latte, una sorta di inizia un percorso. Adesso è stato mandato questa bozza di decreto a Bruxelles che dovrà valutarne i contenuti, se poi Bruxelles darà l'ok, evidentemente poi ci sarà l'iter per farlo entrare in vigore. Perfetto. Voglio solo ricordare agli ascoltatori, mi scusi, che questa proposta arriva dal Ministero delle Politiche Agricole, cioè da Martina, ma anche dal Ministro dello Sviluppo Economico, quindi diciamo c'è compresa anche la filiera della produzione, quindi non è solo una rappresentanza degli agricoltori, ma anche quella delle imprese. Io la ringrazio, Bazzana, e le faccio naturalmente gli auguri anche a lei di Buon Natale. Grazie per averci spiegato questa vicenda, per aver anche sostenuto le tesi dei coltivatori. Cari ascoltatori, all'800 24 00 24 come sempre vi chiediamo se vi ha convinto oppure no questo si può fare, che riguarda le etichette e il grano. Caro Davide, ma io credo che in questo caso una cosa non escluda l'altra, perché alla fin dei conti mi sembra anche lecito che uno possa sapere, leggendo un'etichetta, certo, da dove arriva. Trasparenza. Dall'altra parte non per forza il fatto che una cosa arrivi dall'estero deve essere un handicap, anzi tante volte pesce veloce del Baltico, che poi alla fine dei conti è merluzzo. Cioè, però tu che sei detto lì da un difensore delle tradizioni e della del campanile italiano addirittura suona ma no, perché tante volte proprio è puro cacao che arriva niente meno che da Manila, non so se a Manila c'hanno cacao, però sto dicendo cose, sai, tabacco che arriva dalla Virginia, cioè uno, cioè la verità è che oggi per andare a fare la spesa bisogna studiare, documentarsi, non puoi stare lì tranquillo. Ma io sono favorevolissimo alle etichette, era semplicemente il fatto di capire appunto fino a dove puoi fermarsi, nel senso che uno può anche dire ma hai fatto in Sicilia o hai fatto in Toscana, perché io preferisco quello siciliano comunque come grano, quindi poi si arriva semplicemente, esistono delle paste dove c'è su scritto anche chi è personalmente il coltivatore, che ti mettono anche la foto, forse quello è un po' esagerato. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con due progetti che cercano il vostro aiuto, due progetti di finanziamento dal basso, tra poco con Crowd Me Up. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Apple. Allora, anche oggi due progetti che cercano il vostro aiuto, il nostro aiuto, cari ascoltatori, li mettiamo a vostro giudizio, al giudizio della giuria popolare. Sono due progetti a sfondo sociale e ambientale, sentirete tra poco. I nostri giurati sono Giovanna, che ci chiama dalla provincia di Messina. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Giovanna voleva fare anche un'associazione politico-animale, veloce, in 20 secondi. Sì, velocissima. Marco Pannella è un vecchio lupo abruzzese. Bella, bellissimo. Questa, bellissima, bellissima. Elegante, eleganza naturale, un capobranco, carismatico, combattivo e qualche pecora politicamente la azzannata. Bene, perfetto. E poi fedele al branco, il suo branco eravamo noi. La iscriviamo al concorso. Abbiamo anche Paola da Roma, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Anche Paola voleva fare una proposta di un politico di un animale? Sì, velocemente, Virginia Raggi, il suricato. Il suricato? Sì. Mi trovo impreparato. Cos'è il suricato? Il suricato è un animaletto che vive, mi sembra, nelle zone desertiche. Io me lo ricordo dai cartoni animati di mio figlio. Proprio per una questione, il motivo qual è? Proprio per una questione di somiglianza. Sono alcune cose, cioè, sì, c'è una somiglianza, diciamo, morfologica, ma secondo me anche di habitat, cioè la nostra città è diventata quasi un luogo desertico ormai, da vari punti di vista, e la Raggi mi sembra che ha avuto questa visione. Bene Paola, grazie anche a lei, resti concentrata. Grazie. Franco da Vicenza. Buongiorno. Allora, io volevo partecipare al discorso degli animali. Veloce, che poi abbiamo il Crowd Me Up da fare, vai. Toti, Franco. E Topo Gigio. Toti? Topo Gigio. Toti, il governatore della Liguria, Davide Vandefossa, esatto, ride. E Topo Gigio, che è un animale personificato, perché è un animale. Esatto. È Toti Gigio, direi. Toti Gigio. Vabbè, non le chiedo il motivo, perché mi sembra evidente il motivo. È un aspetto, credo, fisico, no? A che fare. Esattamente. Insomma, stiamo tutti ridendo. Stiamo tutti ridendo, non si offenda Toti, perché così è solo un gioco. Vabbè, fra tutti, con tutti gli animali che abbiamo detto, l'unico di cui ti preoccupi è Toti, Topo Gigio. No, perché non, per un difetto fisico. Non è offensivo. Abbiamo capito che sono tutti animali che vivono comunque in un habitat di cartoni animati ultimamente, perché, come dicevamo, bisogna distinguere però tra gasteropodi, mustelidi, loricati e cheloni, e poi ci sono i suricati, che sono un'altra cosa ancora. Prego, lezioni di scienze, la vigilia di Natale alla mattina alle 9. Allora, giurati, restate concentrati, andiamo a presentare il primo progetto. Si tratta del progetto per la riforestazione del bosco di Santo Pietro a Caltagirone, una delle sugherete più antiche ed estese della Sicilia, che oggi giace purtroppo in condizioni di degrado e abbandono. I ragazzi dell'associazione Il Ramarro, vi ringrazio intanto per aver scelto questo nome e farlo dire a me, Il Ramarro, si sono messi in testa di salvarlo, e per farlo hanno lanciato la campagna Piantiamo Insieme la Foresta del Terzo Millennio, con l'obiettivo di raccogliere 3.500 euro. Ne parliamo con Marco Interlandi dell'associazione Ramarro. Buongiorno, benvenuto Marco. Buongiorno a voi e tanti auguri di buon Natale. Auguri anche a te. Buongiorno a tutto il Ramarro. Allora, grazie. Un minuto, poco più, per difendere e sostenere questo progetto. Eccoci, al Ramarro siamo impegnati su due fronti: la promozione a tutti i livelli di comportamenti attivi a favore dell'ambiente e la valorizzazione del grande patrimonio naturalistico, il Bosco di Santo Pietro, che appartiene alla città di Caltagirone dal 1193, ma che durante tutto il Novecento ha subito così tanti torti e violenze, come i ripetuti incendi dolosi, da ridursi alla condizione di relitto. Da molti anni il Ramarro gestisce incomodato 12 ettari di questo territorio, con energie e risorse proprie, a costo zero per la classe del comune che ne è il proprietario, per le casse del comune. Con questo progetto vogliamo invertire la tendenza e passare dal secolo della distruzione e del degrado a quello della ricostruzione. Nonostante gli scempi, questo territorio è ancora oggi uno scrigno di biodiversità, con più di 300 specie vegetali, querce pluricentenarie e 100 specie di uccelli. Con il vostro contributo, infine, il nostro obiettivo per i prossimi 3 anni è di continuare il restauro ambientale con la messa a dimora di 1000 piantine di querce e di altre varietà tipiche della macchia mediterranea. Ok, mi piace che in chiusura sta accelerando la velocità per stare nei tempi. Hai spiegato tutto, c'era qualcosa che volevi aggiungere, Marco? Sì, che è praticamente la nostra associazione, che si basa su forme di volontariato realmente puro, bene, in maniera tale da poter avere una piccola economia e lavoro diffuso, perché piantare alberi è il nostro modo di affermare la legalità. Chiedete 3.500 euro, chiaro, questo è il progetto Piantiamo Insieme la Foresta del Terzo Millennio. Adesso, giurati, restate concentrati, perché vi presentiamo il secondo progetto, che si chiama Adotta un Clown, e è una campagna di crowdfunding nata per sostenere i clown dottori, questa figura quasi mitologica ma bellissima, negli ospedali di Pontedera, Lucca, Empoli, Pisa e Massa. Servono 10.000 euro per aiutarli a continuare il loro prezioso lavoro con i pazienti di ogni età, ma soprattutto con i più piccoli. Chi sostiene Adotta un Clown aiuta il contagio dell'unica malattia sana, ovvero la risata. E allora ce ne parla Giulia Pucetti, buongiorno. Buongiorno e auguri a tutti. Buongiorno. Benvenuta Giulia, auguri, e anche a te un minuto, poco più, per sostenere questo progetto Adotta un Clown. Sì, dunque partiamo dal presupposto che è stato dimostrato scientificamente che ridere fa bene alla salute, innalza le difese immunitarie e favorisce la guarigione. Ora, noi siamo adulti, quindi bisogna entrare un po' nell'ottica di un bambino che si trova costretto a passare un periodo in ospedale, dove si sente sradicato dal suo ambiente, privato dei suoi spazi di riferimento, si sente come catapultato in un luogo che percepisce come spersonalizzante e frenetico, e continuamente si crede sotto attacco perché, non so, gli vengono fatti dei prelievi o gli vengono messi dei sondini, le mascherine, esami vari ai quali viene sottoposto. Quindi è per instaurare una relazione di fiducia col bambino e con il personale ospedaliero con il quale lavoriamo a stretto contatto, che arriva la risata, no? Il comico. Però per far ridere ci vuole professionalità, ecco perché tutti i giorni i clown dottori della nostra cooperativa vanno nelle pediatrie e offrono ai bambini ricoverati il divertimento in situazioni difficili, spaventose e a volte dolorose. Quindi vogliamo continuare a garantire il diritto, certo, sì, di ridere per tutti. Grazie Giulia. Giulia Pucetti, questa è la Dotta un Clown. Allora, sono due bei progetti, la foresta, io semplifico i clown dottori. Allora andiamo con i nostri giurati, voglio vedere come ne usciranno, perché è difficile. Giovanna, dalla provincia di Messina, comincio da te. Per me l'ombra del campanile incombe, anche se non sono siciliana, però la mia patria d'adozione mi porta al ramarro e alla foresta senza dubbio, anche perché poi sono... si può dire clownfobica? Non lo so. Ad ogni certo modo, che si, ecco, può dire, ed è abbastanza codificata, perché in diverse serie televisive ci sono personaggi che hanno problemi con i clown. Ecco, comunque il ramarro, le foreste, anche perché ho un pezzo di bosco e me lo bruciano ogni anno, maledizione a loro. Quindi l'importanza della foresta, il voto di Giovanna va per il ramarro. Il ramarro. Con Paolo che chiama da Roma. Paolo. No, Paola, sono Paola, io. Paola, scusa. Sì, se, vado anch'io per la foresta. Sono molto combattuta perché ho un figlio che fa medicina e si occupa di questo. Conosco ragazzi che lavorano in questo settore, cioè, della clownterapia. Sì, la foresta. Voti per la foresta. Bene, 2-0 per la foresta. Andiamo con l'ultimo voto, che è quello di Franco da Vicenza. Chissà se riuscirà a bilanciare almeno in parte la giuria di oggi. Vai, Franco. È molto difficile però trovare dei siciliani che finalmente amano la propria terra. È clamoroso, il terzo voto per il ramarro. Ho capito, ecco, bene? Sì, sì. L'ho, sì, anticipato. No, vado veloce perché abbiamo il vincitore. Beh, i siciliani comunque l'amano la propria terra. A volte no. L'amano molto, poi ci sono molte difficoltà, però amarla l'amano. Vediamo se abbiamo un quarto voto oggi, quello di Davide. Ma guarda, Sforzi, il mio voto non vorrei adesso pesarsi e sbilanciarsi, però visto che è Natale io esagererei. Io voglio uscire di qui e adottare un clown, un ramarro, una quercia e lasciare anche un giocattolo non troppo pesante in sospeso. Cioè, ha sbaragliato tutti. Va bene, io ringrazio Giovanna, Paolo e Franco, i nostri ascoltatori giurati, ma soprattutto ringrazio i rappresentanti del progetto Piantiamo Insieme la Foresta del Terzo Millennio, Marco Interlandi, grazie, e Adotta un Clown, Giulia Pucetti. Tutti e due i progetti li trovate sulla piattaforma di Apple, naturalmente se vi siete fatti convinti andate e fate una piccola donazione, come sempre ogni sabato mattina su Radio 24. Tutte le informazioni le trovate anche sulla pagina Si Può Fare all'interno del sito di Radio 24. Giusto. Io ci tengo solamente a dire che ho detto ramarro senza R moscia e quindi ne sono molto fiero. È uno sforzo logopedistico non indifferente. Esatto, bravo Davide. Un encomio a Carlo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Visto due asini grattarsi il dorso sotto al sole. Perdi tempo senza uno straccio d'ambizione. Ho visto due asini crogiolarsi a primavera. Vabbè, qua il cerchio si sta chiudendo in una maniera quasi una tenaglia, quasi una tenaglia. Perché è tutta la mattina che vi stiamo... Una mattinata zoomorfa! Terrorizzato con questa storia degli animali e non potevamo non chiudere con questa notizia qua. Io ringrazio per essere con noi Fabrizia Grillo, referente ligure di OIPES Engea, che è l'organizzazione italiana professionisti dell'educazione allo sport. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Che, se abbiamo capito bene, in Liguria organizza corsi per la conduzione degli asini. Sì, esatto, non solo in Liguria, in quanto appunto essendo internazionale li organizziamo un po' ovunque, diciamo, dove dove c'è richiesta e dove soprattutto c'è necessità di formare queste figure. Ora avete voglia voi ascoltatori di ridere, anche Davide Van de Sfross è esploso quasi in una risata. No, ma io sono... perché gli asini sono terapeutici, fanno bene. Sono ammirato. Esatto, gli asini, c'è un po' la riscoperta adesso, quindi anche se di moda va bene comunque. Perché ma perché sono terapeutici più del cavallo o come il cavallo? Per esempio? Perché l'asino normalmente non gode di una buona fama, questo bisogna dire. No, infatti, ma le fame purtroppo spesso non sono realistiche, nel senso che l'asino comunque non scappa, l'asino è in genere un pochino più piccolo del cavallo, ha un'altra indole, quindi permette comunque un avvicinamento anche semplice, tra virgolette. Ma è stupido o no? No, perché questa è la vera cosa da sfatare, infatti. Perché è l'asino per tutti è stupido. Esatto. Essere innocuo non vuol dire non essere stupido, ci sono però mi chiedevo se... No, l'asino non è assolutamente stupido, ovviamente come per tutti gli animali dipende da individuo a individuo, però certo. Ha delle fortissime è un po' come gli uomini. Ma non volevo dire. Invece sì, lo dica. È un po' come tutti noi, insomma, cioè il più simpatico, il più socievole, quello un pochino più introverso, comunque diciamo che permettono questo avvicinamento anche a fasce più deboli, ecco. Ma perché forse si può intuire andare a cavallo, per esempio, il cavallo va veloce, no? Quindi è una forma anche di allenamento fisico importante, invece l'asino va lento, va piano, quindi voi dite è antistress. Sì, esatto, è antistress perché comunque il passo caratteristico, l'andatura caratteristica dell'asino è il passo, più che per il cavallo che in genere viene definito per la corsa, no? Un cavallo cosa fa? Corre, l'asino cosa fa? Cammina. Comunque si va anche a sella degli asini, ovviamente con una corporatura adeguata sono in grado di portare persone, quindi non è difficile, specialmente in questi giorni di festa, vedere qualche asinello con in groppa un bambino. Magari condotto dal Babbo Natale locale, no? Se questo accade nel presepe, però esatto. Potrebbe creare un po' di panico. Comunque è affascinante. No, comunque sì, affascinante. A passo d'asino si fanno anche delle passeggiate, dei trekking. E quindi comunque se l'asino si ferma, ci si ferma anche noi, nel senso che si prende un ritmo diverso. Mi ha colpito una cosa, i più entusiasti, sto a quello che dite voi, del recupero di questo contatto con la natura attraverso gli asini sono gli under 40, cioè sono i giovani. Sì. Sì, è vero, perché comunque un po' sulla scia dell'avvicinamento alla natura, quindi ecologia, natura e tutto quanto, e l'asino comunque consente appunto attraverso il suo passo lento di guardarsi anche più intorno. Però e quindi, a quell'età c'è bisogno di guardarsi intorno per decidere, capire qual è la propria strada. sì, certo, anche perché comunque l'asino avvicina, io ho visto anche in queste escursioni che ho fatto, che faccio, dove c'è più spirito di gruppo, perché comunque non è un cane che puoi anche liberare e va per conto suo, certo. L'asino comunque ma com'è, come lo porti, come non lo porti, come lo carichiamo, insomma ma, è un ma però si può cavalcare, sì? Giustamente, nel senso che questo è un corso per cavalcarli, certo. Però bisogna avere la corporatura giusta, perché non è che chiunque credo possa andare su un asino, oppure avete gli asini giganti. Cosa intendi, ti preoccupi per qualcuno di noi? No, anche certo. Ma questo corso non è solo per cavalcarli o in termini tecnico montarli, anche per condurli. Sì, condurli e soprattutto l'avvicinamento e la conoscenza dell'asino anche a livello psicologico, no? Nel senso che abitudini ha e quindi tu sai le abitudini e ti comporti di conseguenza. È un modo per entrare proprio, diciamo, nell'ambito, nel quello che io chiamo tunnel dell'asino, no? Che può essere il tunnel dell'asino o del cavallo, cioè una passione che piano piano può nascere e che comunque permette di essere più in comunicazione con questo animale senza doverlo ridurre invece a persona da condurre, perché c'è anche questa questo errore. Va bene, insomma, noi chissà, mi iscriverò prima o poi a uno di questi corsi. Mi piacerebbe, a me personalmente. Grazie per essere stata con noi, Fabrizia Grillo dell'OIPES. Grazie mille. E questi sono i corsi di conduzione degli asini. Vabbè, in una puntata nella quale vi abbiamo chiesto di paragonare ogni politico a un animale. Era perfetta. Volevamo arrivare qua, in realtà. Sono 2 ore e mezza che in realtà siamo qua che fremiamo per darvi l'ultima notizia, perché il giro era quello. Davide, quale sarà la prima canzone che farà il concerto del 7 giugno? Ce l'hai già la scaletta a San Siro? Ma figuriamoci se ho la scaletta. Ci stai ancora lavorando? Ma per l'amor di Dio, sarà come costruire il Duomo di Milano. State Building, bisognerà capire. Poi siamo solo a dicembre. Esatto, il 9 giugno, manca un sacco. E già mi sveglio di notte a pensare... Ah, però con gli anelli come sono disposti. Comunque sarà un concerto rock, non sarà un concerto. Sarà un concerto che anche lì dobbiamo proprio cercare di rendere. Bisognerà renderlo un po' un riassunto di tutto quello che c'è stato. Quindi ci sarà una componente, magari in un certo modo, ci sarà un tipo di sound. Potrebbe essere anche perché comunque un mix di sonorità. È giusto. Nella storia delle mie canzoni ci sono stati diversi ingredienti. Sarebbe interessante. Non si può far tutto, non posso portare certo la sinfonia. Ah, non dura 4 giorni. No, di non fila. Dura 4 giorni, durerà magari spero qualche 4 ore. Ecco. 4 ore. Dobbiamo dare i numeri, l'abbiamo promesso prima. Dall'alto della mia. Cioè, abbiamo scherzato su questa cosa druidica. Allora io darò i numeri, 3 numeri. Sì. Perché tanto regalo di Natale. Speriamo portino buono. Il primo numero che do è 18, come il grande amaro degli anni 70. 45 come il primo tempo della partita di calcio e 22 come il doppio di 11. Da giocare sulla ruota di scorta, perché io non so. No, pensavo la ruota del lago di Como. No, io ma sono va bene. Di Davide, quindi la ruota di Domodossola non se c'è. Se non c'è. Escono, non no. Chiedeteci niente. No, esatto. No. Prendetela com'è e via. 18, 45, 22. Di sentire anche Giovanna da non so da dove, velocemente. Giovanna, vai, velocissima. Giovanna, prego, veloce per chiudere la Salve. Puntata. Cosa voleva dire? Posto, ma non lo era. Io volevo abbinare il sommaro alla neo ministra dell'istruzione che ha inventato la laurea. Vabbè, questa era un po' facile, Giovanna. E in effetti, per un politico, il paragone col sommaro o con l'asino, tanto più per il ministro dell'istruzione che si è fatta la polemica sul suo diploma. Era un po' facile. Allora invece noi dallo scatolo abbiamo estratto, cosa abbiamo estratto? Abbiamo estratto vince Matteo da Milano con il paragone tra Trump e l'Aquila, perché vogliamo vedere un Trump che vede dove gli altri non hanno visto. Ecco, questa è un po' l'idea dell'ascoltatore. Si becca i biglietti della mostra di Basquiat al MUDEC di Milano. Noi non ci sentiamo in diretta, ma registrati domani per la puntata di Natale. Ma però vi facciamo adesso gli auguri di buon Natale a tutti. Esatto, ritorneremo in diretta l'anno prossimo. Grazie a Davide De Van de Sfros, 7 giugno a San Siro, l'appuntamento per il concerto 9 giugno è la data esatta. Diamo i numeri, ma diamoli giusti. 9 giugno, esatto. 9 giugno c'è tempo. Grazie a Matteo Ramelli, Claudia Schiattone, Andrea Piana, Peter Bescapè.